America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York, Mario Platero. Vorrei cominciare oggi con la chiusura del viaggio del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella qui a New York. Il Presidente della Repubblica è andato a Ellis Island. Ecco, è stato, devo dire, un momento piuttosto commovente, non solo perché è molto interessante e toccante essere in questo isolotto dove c'è questa costruzione in mattoni che ha accolto 12 milioni di emigranti tra la fine dell'Ottocento e il 1956, ma perché poi sulla via del ritorno il Presidente ha deciso, il Presidente era arrivato in macchina, tra l'altro c'era stato anche un problema perché il suo convoglio arrivando era stato bloccato prima del Lincoln Tunnel perché c'era stato un incendio di una macchina, pensate, questo succede anche quando ci sono le più imponenti organizzazioni, dunque si era accumulato un ritardo, ma non è stato per quella ragione che il Presidente ha deciso di tornare via mare a Manhattan con il traghetto, è stato perché voleva vedere lo skyline di New York, voleva sentire, come dire, sentire il mare. E ho avuto la possibilità di essere nel gruppo ristretto, nel piano alto di questo traghetto, e a un certo punto il Presidente, che preparava coi suoi l'incontro successivo con Bill de Blasio, si è alzato, è andato vicino al grande finestrone proprio quando si stava passando davanti alla Statua della Libertà, e da solo, come dire, si è quasi messo sull'attenti, come per rispetto, come per porgere omaggio a questo straordinario simbolo della libertà, direi non soltanto per New York, per l'America, ma per tutto il mondo, e soprattutto per quei milioni di emigrati che per fuggire dalla fame o dalle persecuzioni sono arrivate su queste sponde. Ecco, un messaggio forte proprio in questo momento in cui, come diceva in mattinata il Presidente, l'Europa sta soffrendo di varie crisi, e aggiungiamo poi la crisi economica, ovviamente la crisi finanziaria, che non aiuta. Tutto il mondo in realtà. Ecco, mi ha fatto ascoltare per dare un po' di ambiente la chiacchierata che il Presidente della Repubblica ha fatto poi con il sindaco di New York, Bill de Blasio, e devo dire anche lì, prima dell'arrivo dei giornalisti, c'era un'atmosfera tra i due molto informale, molto simpatica, molto calda, scherzavano, parlavano naturalmente anche di questioni serie, anche lì si è parlato di immigrazione, delle sfide che arrivano, che giungono dall'immigrazione, e di nuovo il nostro Presidente ha espresso parole di ottimismo per il futuro dell'Europa, non di pessimismo. Ma mi ha colpito veramente il tono amichevole, spiritoso, Bill de Blasio che dice: ma insomma, i miei bisnonni, uno di Benevento, l'altro di Matera, sarebbero felicissimi di sapere che io sono qui con il Presidente della Repubblica italiana, e non solo perché sono con il Presidente della Repubblica italiana, ma sarebbero orgogliosissimi perché lei, signor Presidente, è un Presidente che arriva dal Sud, che arriva dalla Sicilia. Ecco, de Blasio ha un attaccamento, devo dire, molto forte nei confronti dell'Italia in genere, ma in particolare nei confronti del Sud. E che ha fatto? Dopo che si è congedato molto amichevolmente, vi dicevo, dal nostro Presidente della Repubblica, si è messo una sciarpa blu con la scritta Napoli e ha cominciato a dire, è stato un momento molto divertente, a provocare la Juventus. C'è l'importantissimo scontro fra Napoli e Juventus questo sabato, domani sera, e de Blasio ha praticamente detto: New York è schierata con il Napoli, vinceremo. Beh, vedremo come andrà a finire. Certo, la provocazione non è cosa da poco. So I think that the Pope is a very political person. I think he doesn't understand the problems our country has. Donald Trump, l'avrete riconosciuto, passiamo alla politica americana perché abbiamo un po' di notizie piuttosto curiose. Intanto qui avete sentito Donald Trump che ha deciso di prendersela questa volta niente meno che con Papa Francesco. Beh, può sembrare bizzarro, finora le ha azzeccate tutte Donald Trump, e qui l'attacco è stato piuttosto violento nei confronti del Papa perché, ha detto Trump, questo Papa fa politica, non dovrebbe fare politica, arriva in Messico, andrà a recitare una messa nei confini meridionali degli Stati Uniti, vicino al Rio Grande, in nome e in onore di quegli emigranti che poi invadono il nostro paese, dice Trump, e che invece noi vogliamo cacciare. Ecco, Trump ha chiuso dicendo: non penso che il Papa capisca quanto sia pericoloso il confine aperto tra gli Stati Uniti e il Messico. Beh, certo, devo dire, Trump una la fa e cento le pensa. Mrs. Obama's work with young women. When you have childhood African American poverty rates. E arriviamo al dibattito di ieri sera tra Hillary Clinton e Bernie Sanders, dibattito piuttosto acceso, non devo dire aggressivo come l'ultimo che c'è stato in New Hampshire, però sicuramente molto acceso. Parecchi temi affrontati dai due candidati, soprattutto il tema degli afroamericani. A questo punto entra in gioco il voto dell'afroamericano e Bernie Sanders ha cercato di conquistare questo voto. Tra l'altro ha avuto ieri l'appoggio, l'endorsement di Harry Belafonte, che è un simbolo, il grandissimo cantante afroamericano, naturalmente, beh, della Giamaica, però è afroamericano, e questo sicuramente è un punto importante a suo favore. Ci sono stati un paio di momenti bizzarri in questo dibattito che tra l'altro è venuto a Milwaukee nel Wisconsin, un dibattito che anticipava un po' il Super Tuesday, anche se il prossimo appuntamento molto importante sarà nella Carolina del Sud. E cioè a un certo punto Hillary Clinton ha esposto il fianco a un attacco da parte di Bernie Sanders. Perché? Perché Hillary aveva detto che uno dei suoi consiglieri, una delle persone a cui lei si ispirava per formulare le sue scelte di politica estera, era Henry Kissinger. E lì potete immaginare Sanders che cosa ne ha dette. Kissinger, dice, ma Kissinger, a parte che ha 93 anni, ma poi era il segretario di Stato di Richard Nixon, ha fatto più danni di qualunque altro segretario di Stato. Io, dice Sanders, sono contro Kissinger, non ascolterei mai quello che dice Kissinger. E di rimando Hillary ha detto, beh, ma vorrei sapere chi ascolti, perché poi parli, ma di politica estera non c'è nessuno. Le tue idee non si trasformano, non si traducono in dei fatti concreti, non sono traducibili in delle misure politiche. Cioè Hillary Clinton ha cercato di sgonfiare quella che è un po' una bolla populista di Bernie Sanders, che promette mari e monti su cose che poi però non potranno essere realizzate. Ecco, Hillary Clinton ha giocato molto su questo e ha confermato che lei sente Kissinger perché ha dei contatti soprattutto con la Cina molto importanti. È stato il segretario di Stato che ha aperto i rapporti con la Cina e di questi tempi, dice signor Sanders, capire a fondo, sentendo un po' tutti, quello che succede in Cina è piuttosto importante. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili, resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su americanradio4.com. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, devo dire affascinante questa corsa elettorale americana, bizzarra, curiosa, interessante, drammatica, piena di suspense e, come dire, la democrazia in azione. E dunque, dedichiamola alla democrazia, la canzone di oggi, nell'interpretazione di Leonard Cohen, Democracy. It's coming through a hole in the air from those Nads in Tiananmen Square. It's coming from a field that this ain't exactly real, or it's real but it ain't exactly there. From the war against disorder, from the sirens night and day, from the fires of the homeless, from the ashes of the gay, democracy is coming to the USA. York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a lunedì. Goodbye and get going!